out and I got this. So I'm gonna go into the discotheque to go for. Con Sheena Is Punk Rocker, con loro siamo entrati ufficialmente nella nostra seconda ora. Un saluto ad un nostro amico Marco da Genova che mi chiede: quale film sul rock mi consiglieresti? Francamente dipende, se vuoi un film sul rock a livello di documentario ce ne sono tanti e partirei da Woodstock. Se invece vuoi film più scanzonati, School of Rock in primis, vedi tu insomma. Se invece vuoi delle biografie, monografie sulle band, esistono tanti DVD in commercio e lì puoi pescare tra storie, filmati rarissimi, concerti, eccetera. Dipende poi quale tipo di rock tu ami, quale tipo di band ti piace. Un saluto anche al Vicolo Inferno da Imola, che nella giornata del nostro giorno di chiusura, il sabato 31 maggio, loro sono a suonare dal vivo, però la dedicheranno a noi. Ti ringrazio, vi ringrazio a tutti. Ciao Marco, come farò senza Rock FM? Non c'è proprio niente da fare? No, caro Alfred da Genova, non c'è proprio niente da fare. Grazie a te per averci seguito tutti questi anni e a noi che ti abbiamo fatto naturalmente compagnia. Tra breve un altro compleanno del giorno, ma prima la formazione degli Eagles. Couldn't keep on coming. compleanno del giorno. Breakers con le note di questo Refugee. Avete sentito anche la siglettina del compleanno del giorno, perché proprio nella giornata del 21 di maggio del 1955 nasce Stan Lynch, che per molto tempo è stato batterista di Tom Petty e gli Heartbreakers. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play, I never see you when deliberately you put me in my way. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles. Advantage edge of my trust in you, and I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. I know you've deceived me, now here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal, nice to see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles and miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles.

molto un pazzo nella pioggia. Mi sono assentato un attimo. Il cafferino ci vuole. Sono le 10:23 minuti primi. Siete comunque su Rock FM. Il sound era quello dei Led Zeppelin, che ci permette di proseguire questa nostra fase di questa giornata, questa fase mattutina. Ricordo che poi al mezzogiorno del cuoco vi lascerò come sempre in questo periodo, in queste ultime settimane, con Claudia. Claudia con voi dalle ore 12 sino alle ore 14.